Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Cara Italia. Cara Italia. Cara Italia. Cara Italia. Cara Italia. Perché chiudi la porta a chi hai creato, cresciuto e formato? Io non mi sento una pecora nera, non mi sento una pecorella smarrita, quindi spero veramente che un giorno queste porte si riapriranno. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Un piccolo documentario che racconta ai nostri giovani espatriati più di 1000 ricerche o libri. Davvero imperdibile questa videolettera che arriva dall'Australia, curata dall'emittente SBS e realizzata da Ada Francesca Rizzoli. Lettera che dà voce a numerosi giovani italiani emigrati down under e motivata così dalla sua realizzatrice. Quando mi sono trasferita in Australia avevo del risentimento nei confronti dell'Italia perché avevo sperato in un cambiamento che non è mai avvenuto. Arrivando a Melbourne ho constatato che molti italiani condividevano le mie stesse sensazioni. Così ho deciso di spiegare al mio paese cosa stava succedendo. Chi volesse saperne di più può collegarsi al sito sbs.com.au, sezione radio. Enjoy! E chissà che le parole di questi nostri giovani emigrati non arrivino all'autore della frase della settimana, oggi copyright del premier Matteo Renzi. Basta con il dibattito che va avanti da 20 anni sui cervelli in fuga. Abbiamo bisogno di più immigrazione di qualità. Dobbiamo rendere attraente questo paese per chi viene dall'America, dall'Australia, dall'Africa, dalla Sud America. Così Renzi. Qui andrebbe ricordato che è sì vitale rendere la penisola più attrattiva, ma condizione imprescindibile per farlo è sradicare i motivi che portano i nostri migliori giovani a fuggire ancora oggi. E su questo occorre lavorare tanto. Intanto negli ultimi 20 anni si sono ampliati i divari di ricchezza tra giovani e anziani, lo scrive Banca Italia, sottolineando come la ricchezza media delle famiglie con capofamiglia tra i 18 e i 34 anni sia meno della metà della 95, mentre quella dei nuclei con capofamiglia di almeno 65 anni è aumentata del 60%. Rincara l'Istat, in un decennio si è invecchiata notevolmente la forza lavoro nelle aziende italiane, con un calo degli occupati under 35 pari a 2,3 milioni e un corrispondente aumento degli occupati over 50 di oltre 2,4 milioni. Nella penisola i giovani tra i 20 e i 34 anni che risultano inattivi sono il 25,4% del totale, a fronte di una media europea del 10%. Dove va un paese così? Va lontano, come il protagonista della puntata odierna. Penalizza una persona iniziare a lavorare in Italia, anche se uno poi ama il suo paese, ha l'obiettivo di ritornare con un'esperienza in una posizione migliore e cambiare qualcosa. Fabio Meliani, 34 anni, è un manager a lavoro negli Stati Uniti per una multinazionale del trasporto e della logistica. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Rappresentano la metà di tutti gli italiani che 2 anni fa hanno deciso di trasferirsi all'estero. Sono 45.000 gli under 40 che hanno portato la residenza oltre confine, scegliendo soprattutto Regno Unito, Germania, Svizzera, Francia e Stati Uniti, una cifra in crescita del 34% rispetto all'anno precedente. Ogni 1000 giovani tra i 18 e i 39 anni, 3,3 decidono di andarsene dall'Italia. Lo afferma una ricerca della Camera di Commercio di Monza e Brianza. Le città da cui si è partiti maggiormente sono Milano, Roma e Torino. E ora torniamo sulla storia di Luana Ricca, la giovane chirurga che 2 anni fa si era raccontata a Giovani Talenti e che a fine dicembre, 1 anno e mezzo dopo il suo rientro in Italia, si è tolta la vita. Il fratello Francesco, giornalista, ha deciso di portare avanti la battaglia di Luana per una sanità italiana più meritocratica. Così Francesco ricorda la sorella e lancia precise denunce. Ascoltate con attenzione quanto dice a Giovani Talenti. Luana era una persona dinamica, caparbia, che non si fermava mai davanti a nulla, era un passo sempre avanti agli altri, ma sin da piccola, perché aveva un'intelligenza che andava oltre la norma, e questo probabilmente per lei era come un limite, paradossalmente era come un limite, perché si imbatteva magari in personaggi, così come le è capitato negli ultimi giorni della sua vita, che non erano al suo livello, non stavano al suo passo. Il rientro in Italia è stato drammatico sotto questo punto di vista, perché dopo una vita di sacrifici si era ritrovata svilita e schiacciato da un sistema che davvero si muove malissimo. Quali muri ha incontrato Luana e quanto a tuo parere quel sistema della sanità marcio che tu stesso hai denunciato ha poi pesato nella sua scelta estrema? Il malessere, l'insoddisfazione di mia sorella era palese. Io l'ho vista l'ultima volta 24 ore prima di compiere il gesto estremo. Non mi aveva trasmesso questa insoddisfazione, questo cattivo stato delle cose in Italia, perché aveva vissuto in Francia e lì era davvero elogiata e invidiata anche per certi versi, per le sue capacità. In Italia invece era tutto al contrario, aveva vinto un concorso all'Aquila ma si era ritrovata a fare esami a Sulmona. Chiaramente da primo chirurgo a Parigi a medico qualunque a Sulmona, insomma ne passa. Questo per lei era una sconfitta personale, una sconfitta professionale. Chiaramente chi sta lì a dirigere non si rende conto che l'Italia ha perso un genio. Voi come famiglia avete avviato dei contatti col Ministero della Salute e col Ministro Lorenzin. Qual è il vostro messaggio? Chiederò il più possibile di istituire una commissione d'inchiesta, ma non una commissione d'inchiesta nazionale, unica, ma bensì è necessario poter costituire delle commissioni d'inchiesta che possano agire in ambito territoriale, ovvero regione per regione, e poi evitare il ripetersi di casi come Luana Ricca, perché di Luana Ricca in Italia ce ne sono a centinaia. Parigi si conferma per il quarto anno consecutivo la città ideale dove studiare, secondo il QS Best Student Cities Rankings. Tra i punti di forza, ragionevole costo di iscrizione alle facoltà, buon rapporto tra costo della vita e servizi offerti, alto numero di università riconosciute a livello mondiale, forte apprezzamento dei datori di lavoro per i laureati. Italia è presente in classifica, ma distanziata. Milano è 38esima, Roma 61esima. A volte ritornano. È nata Fuori di me, associazione di studenti e giovani lavoratori legati alla città di Messina che hanno intrapreso altrove la propria carriera universitaria o percorso professionale. Info a contatti.fuorideme@gmail.com. C'è tempo fino al 29 gennaio per usufruire di una borsa di studio che consentirà di trascorrere un periodo di studio e ricerca da un minimo di 6 mesi a un massimo di 9 presso un ateneo negli Stati Uniti. Il tutto all'interno del bando Fulbright Fondazione Falcone NIAF. Info su fulbright.it/fulbright-falcone-NIAF. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta oltreoceano, mobilità e obiettivi di carriera, le parole chiave di oggi. Nome: Fabio. Cognome: Meliani. Età: ho 34 anni. Città di origine: Milano. Studi: laurea specialistica in antropologia culturale all'Università Bicocca. Anno in cui hai lasciato l'Italia: all'inizio dell'anno 2007. Per andare dove? A Madrid, in Spagna. Perché? Paura nel pensare al mio futuro. Quale lavoro svolge attualmente? Regional Route Development Manager. Dove? Atlanta, Georgia. Tornerai? Assolutamente sì. In Italia ho sempre lavorato, anche dopo l'università un lavoro ce l'avevo, ma sinceramente non ero contento. Vedevo anzi che con lo stipendio che ricevevo non avrei mai potuto permettermi di viaggiare o di comprare una casa decente senza dover lasciare un mutuo da pagare ai miei figli. Così rifletti Fabio dagli Stati Uniti. Al di là di tutto, ti chiedo, è la mancanza di prospettive a rendere l'Italia una terra desolata per i giovani che hanno voglia di futuro? Credo assolutamente di sì. Sì, perché oggettivamente penalizza una persona iniziare a lavorare in Italia. Anche se uno poi ama il suo paese, ha l'obiettivo di ritornare con un'esperienza in una posizione migliore e cambiare qualcosa. Dopo il liceo scientifico scegli la facoltà di comunicazione interculturale alla Bicocca di Milano. I media la definivano all'epoca, l'ho scritto, una fabbrica di disoccupati. Perché, ti chiedo allora, una scelta così particolare, forse anche un po' rischiosa? Perché era l'unica cosa che davvero volevo. Avevo un lavoro, ero in un periodo ribelle, non ero sicuro di voler continuare a studiare. Leggendo il percorso di studi era l'unica cosa che davvero mi piaceva. E nella specialistica correggi la rotta verso antropologia culturale. Perché? Vedevo gli sbocchi in pubblicità, in giornalismo, change management in una multinazionale. Mi piaceva molto Umberto Eco, mi piacevano i professori di antropologia che avevo conosciuto durante comunicazione e soprattutto sapevo che era l'unica cosa che mi avrebbe dato il tipo di cultura interessante dal mio punto di vista che volevo. Tu chiudi l'università col voto di 110-110, allora però il tuo personale voto all'università italiana qual è? 100%, dovrebbe vendere. Meglio. Ci sono problemi, ci sono code, ci sono meno organizzazione, c'è meno organizzazione. Da un altro punto di vista la cultura critica, il prezzo e il tipo di prodotto della università italiana credo sia molto migliore. Le persone qua devono iniziare a lavorare per pagare l'università per cui hanno chiesto un prestito, le persone escono dall'università essendo grandi specialisti in qualcosa, ma senza avere uno spirito critico e senza essere capaci di pensare. Lo dicevamo prima, hai sempre lavorato fin da giovane per non pesare troppo sulla tua famiglia e in chiusura ai studi universitari eri anche approdato in un'azienda di grafica. Il lavoro ti affascinava, ma c'è un grande ma, dovuto alla frustrazione di fondo che ti generavano le condizioni generali e contrattuali. Allora, in sintesi, cosa non andava, Fabio? Vedermi lì, le aspettative sulla mia casa, sui viaggi che avrei potuto fare, la mia sete di mondo, di aprire i ristretti orizzonti che avevo davanti. Ho sempre lavorato per non voler chiedere soldi alla mia famiglia e ora mi vedo in un mondo totalmente diverso. Sto preparando un viaggio in Texas. Tra poco ci arriviamo. Lentamente i tuoi interessi si concentrano sulla logistica, che come vedremo segnerà poi il tuo futuro professionale. I primi colloqui però e le prime offerte di lavoro dall'estero, questa è un po' un'anomalia, risultano un po' demoralizzanti. Nello specifico, cosa ti vedevi proporre? All'inizio di vendere assicurazioni porta a porta, ma la peggiore fu un colloquio a cui mi presentai in giacca e cravatta e mi si offrì fare la barca coaches in una discoteca di lusso, parcheggiare le macchine dei VIP. Non esattamente ciò per cui avevi studiato, potremmo dire. Quando stai per rinunciare a un lavoro all'estero ti arriva l'offerta che segnerà per sempre il tuo percorso lavorativo. Allora, come arriva e quanti gradi di selezione hai dovuto passare prima di essere assunto? Nel peggior momento di sconforto mi arrivò una telefonata solo chiedendomi quante lingue parlavo. Dopodiché passai quattro diversi test e colloqui fuori dall'azienda e dopodiché due colloqui dentro a Merckline che io stavo cercando esattamente di che cosa si occupasse. C'erano persone che viaggiavano all'Europa cercando di passare questo test in diversi paesi per cercare di entrare. In totale invece ho avuto la fortuna di entrare dopo sei diversi colloqui. Sei gradi di colloquio. La sede di lavoro è Madrid, con quale mansione? Gestivo l'importazione di vari clienti in Spagna. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Iniziai a lavorare 4 mesi dopo la laurea in una multinazionale in un ufficio che mi davano energia dopo le topaie in cui avevo sudato a lungo. Ormai ero dentro, dovevo solo dimostrare di essere bravo, ricordi. Anche in termini di carriera scali rapidamente le posizioni all'estero, allora la meritocrazia funziona? Assolutamente sì. C'è chi ti prende in giro, sempre ci sarà, se entri presto, se esci tardi, se mangi seduto alla scrivania. Ma visto poi dal mio punto di vista di quando ho dovuto prendere persone per il mio ufficio, cerchi sempre persone che abbiano davvero voglia, che dimostrino implicazione e alle quali tu possa insegnare qualcosa, però allo stesso tempo le quali vogliano darti davvero qualcosa e siano implicate nel lavoro. Mentre la tua carriera procede spedita, il tuo attuale datore di lavoro, all'epoca tuo cliente Kühne und Nagel, chiede che sia tu a gestire i suoi uffici spagnoli e qui si incrociano i casi della vita. Quando la tua azienda ti nega un passaggio di settore, tu ti ritrovi con una bella offerta di lavoro a Siviglia. Come succede tutto ciò? Nel momento peggiore, con la crisi che impattava in Spagna e una previsione di un taglio del personale di quasi la metà dell'organico, e io ho chiesto, sapendo di non poter crescere, un movimento orizzontale per imparare nuove cose, per crescere professionalmente e è stato negato rotondamente dal mio manager. A quel punto, in un momento di disperazione, mi è suonato proprio il telefono della scrivania, chiamata che io chiedevo ai colleghi di prendere perché non ero, insomma, della morale corretta, e invece poi si rivelava il direttore di risorse umane nazionale dell'azienda dove lavoro ora, che mi offriva un lavoro molto più interessante e ben pagato nel sud della Spagna. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani immigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Fabio Megliani, 34enne manager al lavoro negli Stati Uniti per una multinazionale della logistica. Fabio vi approda dopo un percorso professionale iniziato in Italia e proseguito all'estero, dove ha trovato una reale valorizzazione delle proprie capacità e competenze e dove soprattutto ha potuto finalmente pensare in grande. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. A Siviglia riporti in attivo economico l'ufficio, scopri però anche come l'aver studiato antropologia ti è di enorme aiuto. Perché? Assolutamente, la realtà dipende dai punti di vista, diceva Wittgenstein. Nella pratica e nella teoria si vede in tutto. Non puoi, in un mondo multinazionale in cui lavori ogni giorno, segui, organizzi il tuo lavoro seguendo il fuso orario e cerchi di parlare con cinesi, poi indiani, poi europei, poi americani e poi la costa ovest, devi sapere come parlare con ogni persona, devi sapere su cosa fare leva con una persona cinese, con un mediterraneo, con un arabo. Perché un tutti hanno diverse sensibilità, questo è il vero segreto, questa è la vera chiave di lettura, giusto? Sì, sembra molto semplice, ma non è. Ma poi a metterlo in pratica. Alla fine il passaggio negli Stati Uniti, allora dove ti trovi adesso per fare cosa? Atlanta, Georgia, e sono il direttore regionale del trade sul Mediterraneo. Quindi coordini un po' tutta la logistica nel Mare Nostrum. Coordino e cerco di far crescere il prodotto italiano e degli altri paesi del Mediterraneo verso il sud-est e il sud-ovest, insomma dal Texas alla Carolina del Nord, il prodotto mediterraneo. Anche tornando in Italia, a parità di posizione e costo della vita, guadagnerei la metà, rifletti. Allora, al di là della bellezza del paese, continuiamo ad essere una meta poco attrattiva per manager dal curriculum internazionale? Dipende, io credo che il problema dell'Italia sia all'inizio. Probabilmente con un curriculum internazionale e una posizione diversa, fra qualche anno sarà più facile ritornare in Italia ed avere quello che negli altri paesi ti spetta. Più in generale, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Cioè non si valuta quello che si ha tra le mani, si cerca sempre di non rischiare, di vedere il rischio nell'investimento e non il valore dell'investimento. Bisogna rischiare un po' per poter avere qualcosa dal capitale umano che c'è, bisogna dargli le possibilità e bisogna credere che possano dare qualcosa. Normalmente paga. Ci raggiunge ora in linea Francesco Paoletti, docente di organizzazione aziendale all'Università Milano Bicocca. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, agli ascoltatori e anche al mio antico studente Fabio Megliani. Con una laurea in antropologia culturale non sarei andato lontano e come molti ex compagni di università starei lavorando con contratti a progetto, riflette Fabio Megliani, ipotizzando una possibile vita parallela in Italia, se ci fosse stata. Allora, quanto è grave, secondo lei, la situazione occupazionale per chi proviene da lauree umanistiche nella penisola? Sicuramente è più grave rispetto ad altri settori, possiamo prendere riferimento alcuni dati che vengono elaborati dall'indagine Alma Laurea. E sappiamo che a un anno dalla laurea lavora oltre l'80% dei laureati in discipline come l'ingegneria e l'economia e lavora poco più del 60% dei laureati, sto parlando di lauree specialistiche come l'ultima di Fabio, per esempio in ambito letterario. I dati, si mantiene. Al di là dei dati, lei lo vede nella pratica? In parte sì, lo vedo nella pratica, vedo che gli studenti che provengono da corsi di laurea umanistiche fanno anche più fatica inizialmente a orientarsi e quindi a capire cosa fare per cercare di approcciare il mercato del lavoro. Lei insegna organizzazione aziendale, corso che Fabio ha apprezzato proprio per il forte collegamento col mondo del lavoro reale. Allora, quanto secondo lei la nostra università è ancora troppo scollegata dal mondo delle imprese oppure vede o ha visto negli ultimi anni dei passi in avanti? Ho visto proprio negli ultimi anni dei passi avanti che si stanno realizzando a seguito dei processi di valutazione dell'università. Oggi nella valutazione della didattica i docenti ogni anno sono chiamati a analizzare i dati di collocamento dei loro laureati nel mercato del lavoro come elaborati da Alma Laurea e nel impostare, progettare degli interventi che possano correggerli e migliorarli. Quindi piano piano si sta facendo largo anche nella componente docente una sensibilità per questo tipo di tematica. Ha insegnato, lei ha fatto ricerca negli Stati Uniti, consiglia ai suoi studenti esperienza all'estero? La risposta è un po' scontata, ma mi piacerebbe sentire anche perché. Assolutamente sì, per varie ragioni. La prima per l'apertura mentale che dà un'esperienza all'estero, che sia negli Stati Uniti o da qualunque altra parte del mondo, anche perché bisogna imparare proprio l'adattamento che Fabio ha così tanto dovuto praticare nella sua vita, niente come l'esperienza all'estero lo insegna. La seconda è l'arricchimento professionale, molto spesso nell'esperienza all'estero si riesce a essere investiti precocemente di responsabilità che nelle aziende italiane arrivano un pochino più tardi e questo aiuta a crescere proprio nelle fasi iniziali. Quanto sono diverse dalla sua prospettiva, dal suo punto di vista, le aziende italiane e quelle estere, lei che le studia quotidianamente, in termini di opportunità professionali e soprattutto di crescita per i giovani professionisti? Mi ricollego un po' a quello che dicevo prima. In genere le aziende estere investono precocemente sulla responsabilizzazione dei loro collaboratori. Lo fanno perché da sempre sono abituati a inserire persone più giovani e nell'arco di poco tempo affidare anche responsabilità organizzative e decisionali. Il secondo aspetto è che in molti casi le aziende estere privilegiano una valutazione del potenziale, del talento puro della persona, più che una valutazione in senso stretto delle competenze già acquisite. E anche questo in qualche modo proietta un po' di più sul medio-lungo termine la valutazione dell'individuo, quindi è più frequente che possa essere offerto magari a un laureato in antropologia una posizione di tipo manageriale se si ritiene che le sue skill comportamentali siano in grado di reggere questo tipo di ruolo. E qui mi sa che c'è ancora un po' di strada da fare allora. Tutto ci auguriamo che anche le aziende italiane imparino a farla, a percorrerla. Grazie professor Francesco Paoletti e buon lavoro. E domanda di rito per Fabio Megliani: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Crederci, bisogna dare tutto come sempre senza aspettarsi niente in cambio, imparare ad arrangiarsi, mettersi in gioco davvero, conquistare la gente per quello che siamo. Gli italiani siamo praticamente, credo, i migliori nel farlo. Anche nel peggiore dei casi, che sono pochi, non si torna con la coda tra le gambe, si torna con esperienze che ti hanno fatto crescere e almeno con un'altra lingua. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un addetto stampa per Carbon Market Watch a Bruxelles, scadenza per i CV domani, curricula recruitment@carbonmarketwatch.org. Un esperto in infrastrutture con laurea in ingegneria per il segretariato della comunità dell'energia a Vienna, scadenza per i CV 20 gennaio, info su energy-community.org. E infine una postdoc in microbiologia medico-molecolare alla Erasmus MC di Rotterdam in Olanda, scadenza per i CV 22 gennaio, info su erasmusmc.nl. E siamo giunti ad Expat, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi parliamo del lavoro di una collega giornalista. Si chiama Silvia Favasuli, è reporter dell'inchiesta e autrice del progetto Expat, attraverso il quale, da diversi mesi, racconta con passione online le storie di chi, come lei, ha scelto di emigrare in Gran Bretagna. Silvia ci spiega come ha cominciato. È nato con la mia idea di partire, di diventare io stessa expat. Era il dicembre 2014 e stavo pensando ormai da qualche mese di lasciare l'Italia per mettermi alla prova e per aprire un po' gli orizzonti, stanca di un'Italia che non mi faceva crescere quanto io volevo, e sono partita. E partendo ho creato questo progetto che ha proprio lo scopo di raccontare quello che succede una volta che lasci l'Italia e affronti un paese straniero, nel mio caso Londra. Quante storie hai raccontato? Ne ho raccontate una ventina, una trentina. Sono molto selettiva perché cerco di scegliere storie che raccontano i microfenomeni che stanno all'interno di questo fenomeno più grande della migrazione. Che identità un po' il giovane che racconti nella tua rubrica? Ci sono tantissimi profili, ovviamente è un fenomeno molto complesso e poi soprattutto è un percorso personale che quindi mette in gioco la persona per come è fatta, con le sue risorse, le sue doti e capacità, quindi ognuno la vive un po' a modo suo, però ci sono delle caratteristiche costanti. Ci sono i ragazzi che partono senza avere nessuna idea di che cosa vogliono fare, senza avere un progetto, sono quelli che fanno più fatica poi ad ottenere quello che vogliono, perché finisce che restano intrappolati in quella che qui chiamano in molti la spirale. Che cos'è la spirale? Succede che tu arrivi, inizi a fare un lavoro in un bar, in un ristorante, lavori full time e resti intrappolato lì dentro, guadagni a sufficienza solo per pagare l'affitto, le spese a fine mese, questo almeno in una città cara come Londra, e non hai il tempo per a un certo punto fermarti, licenziarti e iniziare a cercare un lavoro più qualificato. E poi ci sono invece tanti altri ragazzi motivati e che sfruttano le opportunità che città come Londra, ma anche Bruxelles o Parigi offrono, quindi quello di finalmente vedere riconosciute le proprie risorse, la propria appunto capacità. Quali sono, sì, i messaggi che più ti hanno colpito in questi mesi? Sì, ma per esempio una cosa che sto notando è che la migrazione in sé diventa uno strumento per costruire cose nuove, cioè c'è tanta energia creativa che nasce all'interno di questo fenomeno. Ad esempio c'è questa cosa che io chiamo le imprese ponte, no? Sono ragazzi che non dimenticano l'Italia ma sfruttano il fatto di essere migranti come un elemento per creare delle idee nuove di impresa soprattutto. Continua l'ondata di giovani che vengono a cercare opportunità, lavoro a Londra. Se ne è parlato tanto, ma dal tuo osservatorio